Buonanotte, sera, giorno, qualunque sia la vostra geografia, tempo e modo, buone albe. Chiedo di avere pazienza, tolleranza e comprensione per quello che dirò, perché queste saranno le mie ultime parole in pubblico prima di smettere di esistere. Mi rivolgo a voi e a coloro che attraverso di voi ci ascoltano e ci guardano. Forse all'inizio, durante questo discorso, potrebbe nascere nel vostro cuore la sensazione che qualcosa sia fuori luogo, che qualcosa non quadri, come se mancassero dei tasselli per dare un senso al rompicapo che vi si sta delineando, come se mancasse qualcosa. Forse dopo giorni, settimane, mesi, anni, decenni, si capirà quello che diciamo ora. Quando nel 1994, con sangue e fuoco, irrompemmo ed interrompemmo, per noi zapatisti non iniziava la guerra. La guerra dell'alto, con la morte, la distruzione, la spogliazione, l'umiliazione, lo sfruttamento e il silenzio imposti al vinto, la stavamo già subendo da secoli. Quello che per noi inizia nel 1994 è uno dei molti momenti della guerra di quelli che stanno in basso contro quelli che stanno sopra, contro il loro mondo. Quella guerra di resistenza che si svolge giorno dopo giorno per le strade di ogni angolo dei cinque continenti, nelle campagne e sulle montagne. La nostra, come quella di molti e molte del basso, era ed è una guerra per l'umanità e contro il neoliberismo, contro la morte noi chiedevamo la vita, contro il silenzio esigevamo la parola e il rispetto, contro l'oblio la memoria, contro l'umiliazione e il disprezzo la dignità, contro l'oppressione e la ribellione, contro la schiavitù la libertà, contro l'imposizione la democrazia, contro il crimine la giustizia. La guerra che iniziammo ci diede il privilegio di raggiungere ascolti e cuori attenti e generosi in geografie vicine e lontane. Mancava certo qualcosa e manca ancora, ma allora ottenemmo lo sguardo dell'altro, il suo ascolto, il suo cuore. Allora ci vedemmo nella necessità di rispondere a una domanda decisiva: che cosa fare? Il nostro dilemma non era tra negoziare o combattere, bensì tra morire o vivere. E abbiamo compiuto una scelta. Invece di formare guerriglieri, soldati e squadroni, abbiamo formato promotori di educazione e di salute e sono state lanciate le basi dell'autonomia che oggi stupisce il mondo. Invece di costruire quartieri militari, migliorare il nostro armamento, innalzare muri e trincee, sono state costruite scuole, ospedali e centri di salute. Abbiamo migliorato le nostre condizioni di vita. Invece di lottare per occupare un posto nel Partenone delle morti individualizzate del basso, abbiamo scelto di costruire la vita. Tutto questo in mezzo a una guerra che non perché sorda fosse meno letale. Perché, compagni, una cosa è gridare non siete soli e un'altra è affrontare solo col proprio corpo una colonna blindata di truppe federali. I blindati fermati dalle donne zapatiste, le aggressioni continue di organizzazioni contadine che di indipendente a volte non hanno nemmeno il nome. La combinazione di paramilitari e contras, la persecuzione con tutto il macchinario di guerra, l'invasione dei villaggi, il rastrellamento delle montagne, l'uso dei cani addestrati, le pale degli elicotteri blindati che agitano le cime delle ceibe, l'ordine vivo o morto lanciato nei primi giorni di gennaio del 1994. In quelle condizioni, a volte solo con le nostre forze e altre con l'appoggio generoso ed incondizionato di gente buona di tutto il mondo, si è andati avanti nella costruzione, ancora incompiuta certo, ma già definita, di quello che siamo. Non è dunque solo una frase fortunata o sfortunata, a seconda se la si guardi dall'alto o dal basso, questa siamo qui, i morti di sempre, che muoiono di nuovo, ma ora per vivere. È la realtà. E quasi 20 anni dopo abbiamo replicato il colpo di mano. Se il 1 gennaio 1994 migliaia di uomini e donne senza volto attaccarono e presero le guarnigioni che proteggevano le città, il 21 dicembre 2012 sono state decine di migliaia di persone a prendere senza parola gli edifici da dove si celebrava la nostra scomparsa. Forse più di qualcuno penserà che sbagliamo nella scelta, che un esercito non può né deve impegnarsi per la pace. Forse è vero. Forse abbiamo sbagliato a scegliere di coltivare la vita invece di adorare la morte. Ma noi abbiamo scelto, senza ascoltare quelli che di fuori ci chiedevano ed esigevano sempre la lotta fino alla morte, quando i morti però li mettevano gli altri. Abbiamo scelto guardandoci e ascoltandoci. Abbiamo scelto la ribellione, cioè la vita. Questo non vuol dire che non sapessimo che la guerra dell'alto avrebbe cercato e cerca di imporre di nuovo il suo dominio su di noi. Sapevamo e sappiamo che avremmo sempre dovuto difendere ciò che siamo e come siamo. Sapevamo e sappiamo che continuerà a esserci la morte affinché ci sia la vita. Sapevamo e sappiamo che per vivere moriamo. Un fallimento? Da quelle parti dicono che non abbiamo ottenuto niente per noi. Non smette di sorprendere come si manipoli con tanta impudenza questa posizione. Pensano che i figli e le figlie dei comandantes e comandantas dovrebbero godere di viaggi all'estero, di studi in scuole private e poi posti di rilievo in aziende o in politica, che invece di lavorare la terra per strapparle il cibo con sudore e fatica, dovrebbero esibirsi sui social network mentre si divertono nei locali ed esibiscono il lusso. Forse i subcomandanti dovrebbero procreare e passare in eredità ai loro discendenti le cariche, le prebende, le scene, come fanno i politici di ogni dove. Forse dovremmo, come i dirigenti di altre organizzazioni contadine, ricevere privilegi e soldi in progetti aiuti, tenercene la maggior parte e lasciare alle basi solo qualche briciola in cambio di eseguire gli ordini criminali che vengono dall'alto. Ma è vero, non abbiamo ottenuto niente di tutto questo per noi. È difficile da credere che 20 anni dopo quel niente per noi, adesso si scopre che non era uno slogan, no? Una frase buona per i cartelloni e canzoni, ma una realtà, la realtà. Se l'essere conseguenti è un fallimento, dunque, l'incoerenza è la strada per il successo, per il potere. Ma noi non vogliamo prendere quella strada, non ci interessa. Su queste basi preferiamo fallire che vincere. L'avvicendamento. In questi 20 anni, nell'esercito zapatista di liberazione nazionale, c'è stato un avvicendamento molteplice e complesso. Quello generazionale, chi era piccolo o non era nemmeno nato all'inizio dell'insurrezione, adesso lotta e guida la resistenza. Quello di classe, dall'originale classe media, istruita, all'indigeno contadino. Quello di razza, dalla dirigenza meticcia alla dirigenza nettamente indigena. Ed il più importante, l'avvicendamento di pensiero, dall'avanguardismo rivoluzionario al comandare ubbidendo, dalla presa del potere dall'alto alla creazione del potere dal basso, dalla politica professionale alla politica quotidiana, dai leader ai popoli, dall'emarginazione di genere alla partecipazione diretta delle donne, dallo scherno per l'altro alla celebrazione della differenza. Non capisco perché gente pensante che afferma che la storia la fanno i popoli si spaventi tanto di fronte all'esistenza di un governo del popolo dove non ci sono gli esperti del governare. Perché li terrorizza che siano i popoli a comandare, a muovere e dirigere i propri passi? Perché scuotono il capo con disapprovazione di fronte al comandare ubbidendo? Il culto della personalità trova nel culto dell'avanguardismo il suo estremo più fanatico. Ed è esattamente questo. Che gli indigeni comandino e che ora un indigeno sia il portavoce e capo, ciò che li atterrisce, li allontana e alla fine li spinge via alla ricerca di qualcuno che necessiti di avanguardie, capi e leader, perché c'è razzismo anche nella sinistra, soprattutto in quella che si crede rivoluzionaria. L'esercito zapatista di liberazione nazionale non è di questi. Per questo non tutti possono essere zapatisti. Un ologramma cangiante e a modo, quello che non sarà. Prima dell'alba del 1994 ho trascorso 10 anni in queste montagne. Ho conosciuto e avuto modo di fare personalmente con alcuni di loro, da cui morte siano morti molti, e conosco ed ho a che fare da allora con altre che oggi sono qui come noi. Molte albe mi hanno trovato a cercare di assimilare le storie che mi raccontavano, i mondi che le disegnavano con silenzi, mani e sguardi, la loro insistenza nell'indicare qualcosa più in là, quel mondo così altro, così lontano, così alieno. Era un sogno. A volte pensavo che erano troppo avanti, che le parole che ci guidavano e guidano venivano da tempi per i quali non c'erano ancora calendari adeguati, persi come erano in geografie imprecise, il sud degno sempre onnipresente in tutti i punti cardinali. E poi mi sono accorto che non mi parlavano in un modo inesatto e pertanto improbabile. Quel mondo procedeva già col suo passo. Voi non l'avete visto? Non lo vedete? Non abbiamo ingannato nessuno del basso. Non nascondiamo che siamo un esercito con la sua struttura piramidale, il suo centro di comando, le sue decisioni dall'alto verso il basso. Non neghiamo quello che siamo per ingraziarci, libertari o per moda. Ma chiunque adesso può vedere se il nostro è un esercito che soppianta o impone. Niente di quello che abbiamo fatto, nel bene e nel male, sarebbe stato possibile se un esercito armato, quello zapatista di Liberazione Nazionale, non si fosse sollevato contro il malgoverno, esercitando il diritto alla violenza legittima, la violenza del basso di fronte alla violenza dell'alto. Siamo guerriglieri e come tali sappiamo qual è il nostro ruolo e il nostro momento. All'alba del giorno primo, del primo mese dell'anno 1994, un esercito di giganti, cioè di indigeni ribelli, scese in città per scuotere il mondo al suo passaggio. Solo pochi giorni dopo, col sangue dei nostri caduti ancora fresco per le strade cittadine, ci rendemmo conto che quelli di fuori non ci vedevano. Abituati a guardare gli indigeni dall'alto, non alzavano lo sguardo per vederci. Abituati a vederci umiliati, il loro cuore non comprendeva la nostra degna ribellione. Il loro sguardo si era fermato sull'unico meticcio con addosso un passamontagna, ovvero non guardavano. Allora i nostri capi e cape dissero: vedono solo quanto sono piccoli. Creiamo qualcuno piccolo come loro affinché lo vedano e attraverso lui vedano noi. Iniziò così una complessa manovra di distrazione. Un trucco di magia terribile e meraviglioso, un malizioso trucco del nostro cuore indigeno. La saggezza indigena sfidava la modernità in uno dei suoi bastioni, i mezzi di comunicazione. Incominciò allora la costruzione del personaggio chiamato Marcos. Vi chiedo di seguirmi in questo ragionamento. Supponiamo che ci sia un altro modo per neutralizzare un criminale, per esempio creandogli la propria arma micidiale e facendogli credere che è efficace, e sulla base della sua efficacia fargli costruire un piano e far sì che nel momento in cui si prepara a sparare l'arma torni a essere quello che è sempre stata, un'illusione. L'intero sistema, ma soprattutto i mezzi di comunicazione, giocano a costruire notorietà per poi distruggerle se non si piegano ai loro propositi. Il fatto è che il subcomandante Marcos è passato dall'essere un portavoce all'essere un elemento di distrazione. Se la strada della guerra, cioè della morte, ci ha preso 10 anni, quello della vita ci ha preso più tempo e richiesto più sforzi, per non parlare del sangue. Perché anche se non lo credete, è più facile morire che vivere. Avevamo bisogno di tempo per essere e per trovare chi sapesse vederci per quello che siamo. Avevamo bisogno di tempo per trovare chi ci guardasse non dall'alto, non dal basso, che ci guardasse di fronte, che ci guardasse con sguardo compagno. E vi dicevo che incominciò allora la costruzione del personaggio. Marcos un giorno aveva gli occhi azzurri, un altro li aveva verdi, o marroni, o miele, o neri, a seconda di chi facesse l'intervista o scattasse la foto. Era riserva in qualche squadra di calcio, commesso in qualche negozio, autista, filosofo, cineasta, eccetera, che potete trovare sui media prezzolati di quei calendari e in diverse geografie. C'era un Marcos per ogni occasione, cioè per ogni intervista. Se posso definire il personaggio Marcos, direi senza indugio che è stata una montatura. Nella costruzione e mantenimento del personaggio, però, abbiamo fatto alcuni errori. Errare è umano, si dice. Nel frattempo continuavamo a cercare, a cercarvi. Voi che adesso siete qui, e chi non è qui ma c'è, nel frattempo proseguiva il progredire delle nostre comunità. Ecco l'avvicendamento. Nella ricerca dell'altro abbiamo spesso fallito. quelli che trovavamo o ci volevamo o ci volevano guidare o volevano che li guidassimo. C'era chi si avvicinava e lo faceva per usarci o per guardare indietro, sia con la nostalgia antropologica sia con la nostalgia militante. Così per qualcuno eravamo comunisti, per altri trotskisti, per altri anarchici, per altri maoisti, per altri millenaristi e tralascio altri isti che lascio a voi completare. Così è stato, fino alla sesta dichiarazione dalla selva alla Candona, la più audace e la più zapatista delle iniziative che abbiamo lanciato fino ad ora. Con la sesta, finalmente, abbiamo incontrato chi ci guarda di fronte e ci saluta e abbraccia, ed è così che si saluta e abbraccia. La sesta, finalmente, abbiamo incontrato voi, finalmente qualcuno che capiva che non cercavamo né pastori che ci guidassero, né greggi da condurre nella terra promessa, né padroni né schiavi, né capi né masse senza testa. Ma mancava di vedere se eravate in grado di guardare ed ascoltare quello che siamo. All'interno i progressi della comunità erano impressionanti. Ci siamo accorti che c'era ormai una generazione che poteva guardarci negli occhi, che poteva ascoltarci e parlarci senza aspettarsi guide o leadership, né pretendere sottomissione né controllo. Marcos, il personaggio, non era più necessario. La nuova tappa della lotta zapatista era pronta. È successo allora quello che è successo. Si potrà dire che la faccenda del personaggio fu oziosa, ma uno sguardo onesto su quei giorni rivelerà quante e quanti ci hanno guardato con piacere o fastidio a causa dei travestimenti di una macchietta. Quindi l'avvicendamento non è per malattia o morte, né per trasferimenti interni, purghe o epurazione. Segue la logica dei cambiamenti interni all'interno dell'esercito zapatista di liberazione nazionale. So che questo non quadra con i rigidi schemi dell'alto, ma questa è la pura verità. E se questo rovina l'indolente e povera elaborazione dei rumorologi e zapatologi, pazienza. Io non sono, né sono stato mai malato. Non sono, né sono mai morto. Possibile. Benché tante volte mi hanno ucciso, tante volte sono morto e di nuovo sono qui. Se mi permettete un consiglio, dovreste coltivare un po' di più il senso dell'umorismo. Non solo per la salute mentale e fisica, ma anche perché senza senso dell'umorismo non capireste lo zapatismo. E chi non comprende giudica, e chi giudica condanna. È nostra convinzione, nostra pratica, che per ribellarsi e lottare non sono necessari né leader, né capi, né messia, né salvatore. Per lottare c'è bisogno solo di un po' di vergogna, un tanto di dignità e molta organizzazione. Il resto o serve per l'insieme collettivo o non serve. Coloro che hanno amato e odiato il subcomandante Marcos ora sanno che hanno odiato ed amato un ologramma. Il loro amore e odio sono stati quindi inutili, sterili, vacui, vuoti. Non ci saranno dunque case museo o targhe di metallo con su scritto qui è nato e cresciuto, né ci sarà chi dirà di essere stato il subcomandante Marcos, né si erediterà il suo nome o il suo incarico. Non ci saranno viaggi pagati all'estero per tenere conferenze, non ci saranno trasferimenti né cure in ospedali di lusso, non ci saranno vedove né eredi. Non ci saranno funerali, né onori, né statue, né musei, né premi, né niente di quello che il sistema fa per promuovere il culto della personalità e per sminuire la collettività. Il personaggio è stato creato ed ora i suoi creatori, gli zapatisti e le zapatiste, lo distruggono. Se qualcuno comprende la lezione delle nostre compagne e compagni, avrà compreso uno dei fondamenti dello zapatismo. Dunque, ci siamo resi conto che la montatura, il personaggio, l'ologramma, non era più necessario. Abbiamo più volte pianificato e poi più volte aspettato il momento adatto, il calendario e la geografia precisi per mostrare quello che in realtà siamo a chi in realtà è. E poi è arrivato Galeano, con la sua morte, a marcare la geografia e il calendario. Qui, alla realidad, adesso nel dolore e la rabbia. Il dolore e la rabbia. Sussurri e grida. Quando siamo arrivati qui nel caracol della realtà, senza che nessuno ce lo dicesse, abbiamo cominciato a parlare sussurrando. Il nostro dolore parlava sommessamente, sommessamente la nostra rabbia, come se cercassimo di evitare che Galeano fosse disturbato dai rumori, dai suoni a lui estranei, come se le nostre voci e i nostri passi lo chiamassero. Aspetta, compagno, diceva il nostro silenzio, non andartene. Ma ci sono altri dolori e altre rabbie. In questo preciso momento, in altri angoli del Messico e del mondo, un uomo, una donna, un altro, un'altra, una bambina, un bambino, un uomo anziano, una donna anziana, una memoria, vengono picchiati crudelmente e impunemente, circondati dal crimine vorace che è il sistema, bastonati, macettati, sparati, finiti, trascinati via fra lo scherno, abbandonati. Il loro corpo poi raccolto e pianto, la loro vita sepolta. La continua sepoltura di voci che erano vive, messe a tacere dal cadavere della terra, su di loro e dal chiudersi delle sbarre. E la più grande beffa è che con ogni palata di terra lanciata dallo sbirro di turno, il sistema dice: non conti niente, nessuno piangerà per te, nessuno si infurierà per la tua morte, nessuno seguirà le tue orme, nessuno può trattenere la tua vita. Che cosa diciamo a quel cadavere che in ogni angolo del mondo del basso viene sepolto dall'oblio? Che solo il nostro dolore e rabbia contano, che solo la nostra indignazione significa qualcosa, che mentre sussurriamo la nostra storia non sentiamo il suo pianto, il suo urlo. Ha tanti nomi l'ingiustizia e sono tante le grida che provoca, ma il nostro dolore e la nostra rabbia non ci impediscono di sentire, ed i nostri sussurri non sono solo per piangere la caduta dei nostri morti ingiustamente, sono per poter ascoltare altri dolori, fare nostre altre rabbie e proseguire così nel complicato, lungo e tortuoso cammino di trasformare tutto ciò in un urlo che diventi lotta liberatrice. E non dimenticare che mentre qualcuno sussurra, qualcun altro grida, e solo l'udito attento può sentire. Mentre ora parliamo e ascoltiamo, qualcuno grida di dolore, di rabbia. E così come bisogna imparare a rivolgere lo sguardo, l'ascolto deve trovare la direzione che lo renda fertile, perché mentre qualcuno riposa c'è chi prosegue la salita. Per vedere questo impegno basta abbassare lo sguardo ed elevare il cuore. Ce la fate? Ce la farete? La giustizia piccola somiglia tanto alla vendetta. La giustizia piccola è quella che distribuisce impunità, punendo uno ne assolve altri. Quella che vogliamo noi, per la quale lottiamo, non si esaurisce con la scoperta degli assassini del compagno Galeano. La ricerca paziente e tenace vuole la verità, non il sollievo della rassegnazione. La giustizia grande ha a che vedere col compagno Galeano sepolto, perché noi ci chiediamo non che cosa fare della sua morte, ma che cosa dobbiamo fare della sua vita. Scusate se entro nel paludoso terreno dei luoghi comuni, ma quel compagno non meritava di morire, non così. Tutto il suo impegno, il suo quotidiano sacrificio puntuale, invisibile per chi non era noi, era per la vita. E vi posso dire che era un essere straordinario, e inoltre, e questo è quello che stupisce, ci sono migliaia di compagni e compagni come lui nelle comunità indigene zapatiste, con la stessa dedizione, identico impegno, uguale chiarezza e unico destino, la libertà. E facendo conti macabri, se qualcuno merita la morte, è chi non esiste né è esistito, se non nella fugacità dei mezzi di comunicazione prezzolati. Assassinando Galeano, o uno chiunque degli zapatisti, quelli di sopra volevano assassinare l'esercito zapatista di liberazione nazionale, non come esercito, ma come ostinato ribelle che costruisce vita dove loro, quelli di sopra, desiderano la desolazione delle industrie minerarie, industrie petrolifere, turistiche, la morte della terra e di chi l'abita e lavora. Noi siamo venuti qui come comandanza generale dell'esercito zapatista di liberazione nazionale a dissotterrare Galeano. Pensiamo che sia necessario che uno di noi muoia affinché Galeano viva. Quindi abbiamo deciso che Marcos da oggi smette di esistere. Lo prenderanno per mano il guerriero Ombra e la piccola Luce, affinché non si perda lungo il cammino. Don Durito se ne andrà con lui e così anche il vecchio Antonio. Non mancherà alle bambine e ai bambini che gli si facevano intorno per ascoltare i suoi racconti, perché sono ormai grandi, hanno giudizio, lottano per la libertà, la democrazia e la giustizia, che è il compito di ogni zapatista. Alla fine chi capirà saprà che non se ne va chi non c'è mai stato, né muore chi non ha mai vissuto. E la morte se ne andrà via ingannata da un indigeno col nome di Lotta di Galeano. E sulle pietre posate sulla sua tomba tornerà a camminare e a insegnare a chi lo vorrà le basi dello zapatismo. Non vendersi, non arrendersi, non tentennare. La morte ci impegna alla vita che contiene. Quindi siamo qui, a deridere la morte nella realtà, compagni. Detto questo, alle ore 2.08 del 25 maggio 2014, sul fronte di combattimento sudorientale dell'esercito zapatista di liberazione nazionale, dichiaro che smette di esistere il noto come subcomandante il surgente Marcos, l'autodenominato subcomandante di acciaio inossidabile. È tutto. Per mia voce non parlerà più la voce dell'esercito zapatista di liberazione nazionale. Bene, salute e a mai più, o hasta sempre. Chi ha capito sa che questo non ha più importanza, non ne ha mai avuta. Dalla realtà zapatista, subcomandante insurgente Marcos, Messico, 24 maggio 2014. Postscriptum 1. Game is over. Postscriptum 2. Scacco matto. Postscriptum 3. Touché. Postscriptum 4. Fatevene una ragione, razza, e mandate tabacco. Postscriptum 5. E questo sarebbe l'inferno? Postscriptum 6. Quindi senza travestimento adesso posso andarmene in giro nudo. Postscriptum 7. Ehi, è buio qui, datemi un po' di luce. Compagni e compagni, vi auguro buone albe. Il mio nome è Galeano, subcomandante insurgente Galeano. Qualcun altro si chiama Galeano? Ah, mi avevano detto che quando sarei rinato lo avrei fatto collettivamente. E così sia dunque. Buon viaggio, abbiate cura di voi e di noi. Dalle montagne del sud-est messicano, subcomandante il surgente Galeano, Messico, maggio 2014. Con la mano levanta, al passato dico adios. E al futuro che verrà di sé che pende de un ilo. E al presente a chi contigo, mano a mano. Oye mi hermano, disfruta el camino. Con la mano levanta, yo tocaré. Yo voy tocando el cielo, de puntilla pa tocar. Voy subiendo un escalón, escribiendo otra canción de escaleras al cielo. Busco un sitio pa' saltar que me da alas pa' volar. Realidad a ras de suelo. Con las manos levantas, no nos vieron al pasar. ¿Cuántas manos hay que alzar para que escuche de nuevo? Tu arma la imaginación, tu escudo no protección, intuyendo el movimiento, con la mano levantada, yo tocaré. Yo voy tocando el cielo con la mano levantada. Yo tocaré. Yo voy tocando el cielo. Yo voy tocando el cielo. Yo voy tocando el cielo.